insomma? Ma questa è una sorta di rivoluzione identitaria, in quanto c'è una popolazione a Napoli che io chiamo i partenopei, che non si riconosce nei luoghi comuni o nella descrizione che si è avuta un po' attraverso i media, secondo quella sineddo che per cui il napoletano è sempre quello che non rispetta le regole o truffaldino, questo nelle, quindi il luogo comune di Pulcinella un po'. Sì, diciamo che la nostra popolazione, quella a cui mi riferisco, di solito rimane nel silenzio, lavora, produce e porta avanti la città. È la forza che fa sopravvivere questa città, costituita da persone semplicemente che rispettano le regole, che educano i figli, che innovano e producono. Ecco Ghelli, ma com'è che vi certificate? Io sono qui sul vostro sito. Tra l'altro, innanzitutto, quanti siete? Siamo 3.400 oramai. Ecco, ma com'è che vi certificate? C'è un codice etico che si deve approvare, un codice etico abbastanza particolare perché è una sorta di decalogo del senso civico. Vi faccio qualche esempio: non butto la carta a terra, non passo con rosso, non parcheggio in seconda fila. Quindi tutto il contrario dei luoghi comuni che in genere poi sono attribuiti spesso ai napoletani, no? Quindi certo. Esattamente il parcheggio. Il mio preferito è che non tradisco un'attesa, non tradisco chi mi dà fiducia, che è un aspetto fondamentale, i partenopei mantengono i patti.